Allora, ci siamo accordati qualche settimana fa, Rosario era stato ospite ancora nei nostri studi, mi pare, con Alberto Lato B, mi pare ancora. Sì, nel 2007. Quindi è passato un po' di anni. È passato un po' di tempo. In cui c'era proprio quando si parlava moltissimo delle scie chimiche, noi abbiamo fatto anche un convegno, eccetera, ne abbiamo parlato di tutto e di più. Sì. E ogni tanto ne parliamo di questo fenomeno. Bene. Allora, Rosario, so che tu ne hai fatto grossi studi di questo fenomeno delle scie chimiche. Sì. Io volevo così, intanto, parlarne un pochino, anche andare un po' indietro e dopo sentire le ultime novità che hai, insomma. Va bene, ok. Cominciamo ad affrontare l'argomento per chi non conosce assolutamente la questione. Molti di noi avranno visto in cielo quelle famose scie bianche che attraversano da orizzonte ad orizzonte e che spesso velano, oscurano il cielo. Il mainstream ufficiale dichiara che si tratta semplicemente di scie di vapore acqueo, ovvero scie di condensazione. Il fenomeno della condensazione dovrebbe verificarsi però solo in determinati casi e in coincidenza di alcuni parametri fisici atmosferici, e cioè una scia di condensazione che normalmente si dovrebbe creare all'uscita dei gas di scarico caldi di un aereo commerciale o di un aereo militare, comunque all'uscita dei motori jet fan, dovrebbe verificarsi appunto un fenomeno della condensazione solamente se in quota avessimo almeno 40 gradi centigradi sotto lo zero, un valore di umidità relativa prossimo o superiore al 70%, e comunque normalmente secondo quelle che sono le definizioni della FAA, della NASA, dell'USAF e via discorrendo, questo fenomeno si dovrebbe verificare solo in taluni casi ad elevata quota, comunque a quote superiori agli 8.000 metri. Oltre ai 10.000 metri praticamente. Allora, normalmente i voli di linea ormai volano a circa 10.000 metri di quota in media, anche perché il livello di quota ultimamente è stato innalzato notevolmente. Però c'è da dire una cosa. Qui siamo rispetto alle dichiarazioni ufficiali, e cioè che siamo di fronte solo a un fenomeno di normalissima condensazione, siamo di fronte ad una menzogna bella e buona. Perché? Perché in alta quota l'aria non è molto umida, ma molto secca. E spesso e volentieri, se andiamo a verificare i dati delle radiosonde, che sono dei palloni sonda che vengono lanciati in quota con la loro apparecchiatura elettronica per valutare vari parametri atmosferici, notiamo che l'umidità è quasi sempre a quelle quote, 8, 10, 13 mila metri, quasi sempre prossima allo 0%. Ora, secondo le definizioni della FAA, della NASA e dell'USAF, una scia di condensazione che comunque dovrebbe durare qualche secondo può formarsi solo se abbiamo parametri di umidità vicini o superiori al 60-70%. Allora, come mai assistiamo a fenomeni di decine e decine e decine di scie in cielo nonostante i parametri di umidità relativa non siano assolutamente idonei affinché si formi anche solo una scia evanescente? Semplicemente perché i meteorologi, il governo alle interrogazioni parlamentari, i disinformatori sulla rete e non ci stanno raccontando delle balle. Perché ci raccontano delle balle? Perché ovviamente si tratta di operazioni militari e devono in qualche modo essere coperte. Tra l'altro la stessa NASA negli ultimi anni sta facendo disinformazione a piè battuto, tant'è vero che addirittura esegue dei corsi e pubblica del materiale per bambini che partono dai 5-6 anni fino ai 10-13, e sono corsi di rieducazione nazionalsocialista, potrei definirli, in quanto che in questi corsi viene insegnato ai bambini che quelle scie, che noi sappiamo essere spruzzate a bella posta, come dice il generale Fabio Mini, sono, secondo la NASA, normalissime scie di condensazione, ovvero il prodotto della condensazione del vapore acqueo. Quindi stanno insegnando bene, diciamo, ai nostri bambini. Stanno insegnando benissimo, cioè stanno insegnando ai nostri bambini che non si devono preoccupare, quando invece periodicamente, tutti i giorni e tutte le notti, si respira nanoparticolato tossico, perché queste scie bianche non sono altro che il risultato della diffusione di metalli pesanti in formato di nanoparticelle, e quindi assai tossiche, cancerogene, tumorali, e in primis trimetilalluminio, bario, manganese, stronzio, litio e poi anche c'è silicio. Perché vengono usati questi metalli? Il primo obiettivo è militare, in quanto i radar e i satelliti di ultima generazione che funzionano nel range della banda KA non funzionano se in presenza di nuvolosità naturale. Quindi, se nei nostri cieli ci sono cumuli o cumulonimbi, o comunque se l'umidità relativa è elevata, i radar e i satelliti, faccio l'esempio del MUOS, che è un radar in banda KA, non funzionano, vanno in scattering, cioè il segnale viene ripetuto erroneamente, e quindi, non essendo un segnale pulito, è un segnale da scartare. I militari hanno risolto... Fermati un attimo, Rosario, perché sì, tu stai adoperando cose tecniche, io devo seguirti anch'io un attimino. Va bene. Altrimenti mi metti un po' in difficoltà, soprattutto me e non so gli ascoltatori. Ci arrivo. Allora, se c'è il cielo, adesso io vado a esempi terra a terra, no? Sì. Se c'è praticamente un cielo blu bellissimo, sì, questi radar praticamente sono in difficoltà. No, no. Dire, no, ti interrompo, è il contrario. Vai. Allora, se noi siamo in presenza di nuvolosità, cioè se siamo in presenza di cumuli da bel tempo, sì, le famose nuvole a pecorella che ricordiamo, sì, quando eravamo piccolini, che adesso non si vedono quasi mai più, perfetto, oppure se siamo in presenza di cumulonimbi, cioè fronti imbriferi che porterebbero a precipitazioni piovose, siamo di fronte a grosse difficoltà. Ah, ecco, ho capito. Ecco. Allora, noi quindi siamo davanti ad operazioni che vengono militarmente nei manuali e nei libri di testo idonei per questo tipo di operazioni, vengono definite operazioni di inseminazione igroscopica delle nubi basse. Igroscopica significa che assorbe l'umidità atmosferica. Quindi, affinché si risolvano questi problemi di esigenze militari, i militari hanno risolto il problema, cioè distruggono la nuvolosità naturale che viene distrutta e sostituita, come dice la NASA, dalle famose smart clouds, cioè nubi nanotecnologiche. Sono nubi artificiali che vengono spacciate per cirri d'alta quota, ma che invece sono nubi di bassa quota che letteralmente divorano, si mangiano l'umidità atmosferica e quindi distruggono la nuvolosità naturale, e queste scie non sono altro che il risultato della dispersione di un particolare tipo di additivo che è il trimetilalluminio, che a contatto con l'ossigeno si espande e reagisce chimicamente in maniera violenta, producendo una fumosa scia bianca. Molti di voi avranno osservato lo shuttle quante volte decollare dalla base di Base Canaveral. Lo shuttle produce, quando decolla, una fumosa e vaporosa e bianchissima nube. Questa nube è provocata dalla presenza di trimetilalluminio nel carburante. Quindi, quello che vediamo noi, e c'è un brevetto del 58 che lo dimostra, 1958, quello che vediamo noi non è altro che il prodotto della dispersione in primis di trimetilalluminio, che a contatto con l'ossigeno come reazione finale produce nanoparticolato di alluminio. Il trimetilalluminio, come ho detto, è un ottimo comburente, per cui viene usato agilmente nei carburanti di ultima generazione. Per quanto riguarda invece il bario, che è un altro metallo pesante comunemente usato dai militari per l'ottimizzazione dei segnali radar satellitari, questo viene disperso anche facendo uso di aerei civili tramite un particolare additivo che, se si va a cercare la scheda su internet, si trova, si chiama Stadis 450, è un additivo per carburanti che nelle sue componenti ha delle parti di bario che viene utilissimo proprio per i progetti di militarizzazione dell'atmosfera. Questo perché... Tutta roba che ci fa bene, insomma. Roba tossica, cioè roba che provoca infarto, ictus, tumore, malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson, problemi muscolari e via discorrendo. Sì, perché queste cose dopo vengono a terra praticamente. È chiaro, nell'ambito, nell'arco delle 24-36 ore questo particolato ricade al suolo, per cui le operazioni vengono ripetute continuamente notte e giorno 24 ore su 24. Quindi praticamente è sempre di continuo, perché se le operazioni delle scie chimiche, delle cosiddette scie chimiche, sono in 24 ore, praticamente questo materiale, questo nano particolato viene sempre giù nelle 24 ore. Questo nano particolato viene giù e ce ne accorgiamo, perché se noi osserviamo le colline, queste non sono più illuminate dal sole chiare e verdi, ma sono bianche. Esatto. E anche quando l'umidità è bassissima, noi la mattina o anche durante tutto il giorno vediamo delle nebbie che i meteorologi, e ricordo che la meteorologia in Italia è gestita dall'aeronautica militare, spacciano per nebbie da umidità o per polveri del deserto o cose varie, però invece si tratta dei nanoparticolato di ricaduta. E non lo dico così tanto per dirlo, lo dicono anche diversi ricercatori negli Stati Uniti, dove la ricerca è, diciamo, non è avanti come da noi, ma perlomeno ci sono molti attivisti in opera, al contrario di come purtroppo è in Italia. E comunque questo nanoparticolato noi lo abbiamo misurato anche con uno strumento che è un rilevatore di polveri, che dà conferma che c'è una diretta correlazione tra l'aumento del nanoparticolato in atmosfera alla sera tardi, verso tra le 9, tra le 21 e mezzanotte, dove il particolato ricade più frequentemente proprio in quelle ore, e le operazioni di aerosol. Quindi se c'è una giornata di operazioni cosiddette di aerosol clandestine molto pesante, alla sera il livello del particolato supera di 3, 4 o 5 volte i livelli di sicurezza, nonostante le ARPA chiaramente non lo segnalino. Perché aerosol clandestino, come lo chiami te? Beh, si tratta sempre di emissione di particolari tipi di elementi in formato di aerosol, per cui per facilità io lo definisco operazioni di aerosol clandestine, perché ufficialmente non esistono. Ascolta, un'altra cosa, diciamo che queste scie chimiche, questi aerei militari che ormai sappiamo, di solito sono quando, ecco perché ho tirato fuori prima, quando ti ho detto il cielo, quando che è azzurro, che è bello, sì. Si vedono questi fenomeni, e questo vedi questo praticamente annuvolirsi dal cielo, o comunque vedere questo cielo. Noi lo chiamiamo turbio, no? Nel senso non nitido, sì. Hai capito? Sì, sì, ma sono, come ti dicevo prima, sono nubi artificiali che vanno a sostituire le nubi naturali. Cioè, se per esempio in una determinata zona d'Italia, io poi parlo dell'Italia perché ci riguarda direttamente, ma comunque il fenomeno è mondiale, se dall'Atlantico e quindi dal lato della Francia arriva una perturbazione importante, questa normalmente viene bloccata nella Liguria di Ponente verso il Piemonte Basso. Così succede normalmente che se sono previste delle precipitazioni sulla Liguria di Ponente non piove, mentre si scatena l'inferno nella Liguria di Levante o in altre regioni come la Toscana o il Veneto e compagnia bella. Questo lo abbiamo già osservato tante volte. Tant'è che nel 2011 eravamo stati in grado di prevedere con un anticipo di 3 giorni l'alluvione nel Levante Ligure, a Genova e nelle Cinque Terre, cosa che la Protezione Civile e la meteorologia ufficiale si guardarono bene dal fare, quindi ci furono anche delle vittime. Se teoricamente i genovesi avessero letto il nostro sito di riferimento per quanto riguarda le previsioni meteo, forse si sarebbero salvate delle vite, perché chiaramente la gente sarebbe stata avvisata prima. Quindi in teoria, praticamente anche senza teoria, quindi in pratica possiamo dire che le scie chimiche vanno a procurare alluvioni da una parte e siccità da un'altra. Esatto, è proprio così, perché come dice il meteorologo Luca Mercalli, l'acqua da qualche parte deve pur cadere, quindi se io impedisco le precipitazioni in una zona, le facilito in un'altra per evitare che in quella zona di particolare interesse militare non piova. Quindi dal tuo punto di vista, perché questi fenomeni, a chi va a giovare praticamente? Domanda a $1,000 forse, o da 10,000, non lo so. Beh, come ho detto, il primo interesse è di tipo militare, però non dimentichiamo che in orbita in Italia e nel mondo abbiamo migliaia di satelliti, anche di per uso civile, che funzionano tutti nello stesso range di microonde, quindi nella banda KA, che hanno lo stesso problema di impossibilità di trasmettere correttamente in presenza di nuvolosità naturale, per cui l'interesse ormai è nato all'inizio come interesse prettamente militare, ma poi si è trasformato in un interesse civile, per cui siccome gli organi competenti, le aziende sono tante, la copertura e il cover up sono totali. Certo, quindi Però questo mette a rischio ovviamente l'umanità, e quindi mettono anche a rischio loro stessi, quelli che fanno anche questi. Sì, questa è una domanda che viene fatta spesso, però io rispondo sempre che non si sono mai posti il problema per le centinaia di esplosioni nucleari effettuate dalla metà degli anni 40 fino a tutta la metà degli anni 80 in tutto il mondo, esplosioni nucleari in atmosfera. Non se l'è posto mai nessuno il problema, e tantomeno i militari si occupano di problemi del genere perché li definiscono dei danni collaterali accettabili. Certo, quindi messi in questa condizione, noi a parte che l'informazione che tu stai dando e ci dici quello che sta succedendo, no? Dopo ci dici anche il sito magari dove sì, possiamo anche andarci a informare. Certo. Quindi alla fine noi come possiamo difendersi magari da questi fenomeni, o comunque sì, guardiamo il cielo ovviamente, però diciamo che c'è questo fenomeno, l'ombrello non credo che sia sufficiente, insomma. Assolutamente, non è sufficiente l'ombrello, non sono sufficienti le mascherine. Chiaramente la prima reazione che si ha è di sconcerto, poi di incredulità, ma bene o male quando poi si raccolgono tutti i dati a disposizione e si va di fronte ad un punto in cui è impossibile negare l'evidenza. L'evidenza viene negata solo dagli enti preposti a negarlo, quindi dalle ARPA, dal governo, dal CICAP, che è l'organo diciamo che si occupa di disinformare in questo senso. Il CICAP è il comitato creato da Piero Angela e che attualmente procura e addestra la disinformazione in Italia, per cui non è una cosa facile. Però la difesa, visto che la difesa passiva purtroppo ha effetti minimi per quanto riguarda la tutela della salute, al di là di quelle che possono essere le terapie chelanti per eliminare i metalli che abbiamo assorbito e che continuiamo ad assorbire e che, ripeto, sono letali. L'unica cosa che noi possiamo fare è continuare a informare in modo tale che molte persone, sempre di più, siano al corrente di queste oscenità, di questo genocidio lento. E nel contempo però quello che consiglio io è cercare anche di attuare delle forme di protesta più incisive, come per esempio può essere lo sciopero fiscale. Non dimentichiamo che lo Stato italiano spende diverse centinaia di milioni di euro l'anno per queste operazioni che per singolo Stato vengono gestite e sono a carico dei singoli Stati, per cui tutti i soldi che vengono persi per il welfare e per la cassa integrazione per i disoccupati e compagnia bella in realtà vengono dirottati per avvelenarci. Oppure, ultimo esempio, l'Alitalia ha avuto dei problemi e è entrata in campo Poste Italiane con i soldi dei risparmiatori, certo. E teniamo conto che le compagnie civili con l'uso di additivi particolari consapevolmente contribuiscono alle operazioni di geoingegneria clandestina nei nostri cieli, per cui noi in realtà stiamo pagando con le nostre tasse per essere avvelenati. Cosa dobbiamo fare allora? Stiamo alimentando, insomma, tutto questo. Sì, beh, è come essere, non lo so... Cioè, stiamo alimentando le banche, portando i nostri soldi, ovviamente, vabbè. Certo, bravo, con la famosa BCE... Per avvelenarci, esatto. A questo punto per scappare, insomma. Ecco, allora, che cosa abbiamo in mano? Soprattutto noi del Nord-Est, parlo dei lavoratori e degli imprenditori che si fanno un mazzo così per continuare a mantenere l'azienda aperta, per mantenere il personale, per non licenziare, per non chiudere, quando poi si viene a sapere che questi soldi vengono sprecati per operazioni di geoingegneria letali per l'ambiente e per le persone. Quindi a questo punto, se si è consapevoli, la prima cosa che c'è da fare innanzitutto è non pagare il canone RAI e motivare anche il motivo, l'origine di questa decisione, ed è molto semplice perché comunque c'è un cavillo che permette di non pagare il canone. Posso dirti, io qui abbiamo il CLIRT, che è un'associazione, ecco. Noi diamo lo spazio che fa questo disegno, diciamo. Quindi i modi ci sono, però devono essere attivati in maniera coerente e da molti cittadini, con chiaramente spiegando quali sono i motivi. Quindi, cioè, è vero, io non pago il canone, però vi devo dire anche perché non lo pago. Non lo pago per risparmiare quei 130 euro, 140 all'anno, ma non lo pago perché il servizio pubblico non assolve al suo compito. Innanzitutto, innanzitutto perché la RAI ha la pubblicità e quindi non è come la BBC che chiede il canone ma non ha pubblicità all'interno dei suoi programmi. Secondo, perché se io sul fondale di un telegiornale vedo delle scie che scorrono, oppure sul fondale di un altro programma vedo ancora delle scie che scorrono, oppure trovo Alberto Angela del CICAP che proprio l'altro ieri ha detto le scie sono delle normalissime nuvole, allora mi devo arrabbiare, mi arrabbio, benissimo, allora io non pago il canone e vi dico anche il motivo. Certo. Ascolta, ma mi ricordo torniamo indietro di qualche decennio di anni fa, no? Sì. Ti dico nel 2002, quando che l'onorevole Ruggante aveva fatto una interrogazione a... Sì, una delle 18 interrogazioni che sono state fatte in Italia. Ecco, esatto, che non è mai stata soddisfatta quell'interrogazione. No, assolutamente. Mi pare che lo Stato, o comunque il Presidente del Consiglio e tutti il Consiglio dei Ministri abbiano sempre detto non sappiamo. Ma tu adesso mi dici che alla fine noi stiamo dando dei soldi per queste cosiddette scie chimiche, quindi c'è una contraddizione qui. Ma perché le istituzioni sono fatte per mentire alla popolazione, prendono i voti, vengono legittimati certi personaggi con il voto e vanno lì e ci prendono per i fondelli. In realtà lo stesso presidente Napolitano che ha fatto e disfatto l'Italia come ha voluto in questi anni, qualche anno fa aveva risposto ad una cittadina che aveva chiesto appunto delucidazioni sulle scie chimiche e tramite il suo rappresentante ufficiale dell'aeronautica aveva risposto che il problema era sottoposto a leggi e regolamenti per cui lui non poteva metterci parola. Allora questa è una intrinseca ammissione che in realtà essi sanno tutto, solo che non possono fare niente o non vogliono fare niente. In realtà ci siamo piegati ci siamo piegati a 90 gradi, abbiamo firmato nel 2003 un accordo con gli Stati Uniti che si chiama Piano Dettagliato per il Controllo del Clima, e in questo piano dettagliato, pagina 38, si leggono alcune voci che rispecchiano pienamente quelli che sono stati i fenomeni climatici che si sono verificati in questi anni, a partire dalla prima estate caldissima del 2003, che è proprio quella che segue l'accordo Italia-USA sui cambiamenti climatici. Questo piano è stato dato in mano al CNR, e per cui vediamo anche spesso che alcuni personaggi del CNR chiaramente sui forum di discussione si sbracciano per raccontarci che sono scie di condensazione. E ovviamente ancora una volta siamo servi dei cosiddetti poteri forti, siamo servi, non ci ribelliamo più a niente, ci accordiamo senza che il cittadino sappia niente, questi politici, chiamiamolo così, si accordano per questo e per l'altro, il cittadino, come hai detto te, non è informato perché il servizio pubblico non dà una giusta informazione. Giusto. E noi stiamo lì ovviamente a seguire ancora una volta la televisione senza capire poi niente, ci dividono ancora una volta. Sì, io dico che la televisione fa più danni che altro, andrebbe proprio tenuta spenta. Assolutamente. Ascolta un attimo, Rosario. Sì. È sorta dei dubbi, però qui non abbiamo dati, o perlomeno non so se tu abbia dati. Sì. Su queste cose. È venuto fuori anche il discorso, o un'ipotesi comunque, che questi esperimenti che fanno, oltre a cambiare il clima, sì, e quindi produrre da una parte, come hai detto te, grandi alluvioni, e dall'altra parte siccità, no? E anche per favorire, diciamo così, l'agricoltura OGM, sì, l'OGM, sì, da quello che so io, faccio che mi sbagli, e correggimi se sbaglio, sì, anche se c'è la siccità, praticamente ha la possibilità comunque di produrre. Vera sta cosa o solo un'ipotesi? No, non è assolutamente un caso. Piatto ricco, mici ficco, dice il proverbio, e in effetti se il progetto di irrorazione consigliato da Edward Teller nel 1997 con il paravento del controllo del riscaldamento climatico, che anche in quel caso è una balla bella e buona, è partito, diciamo, solo con obiettivi militari, in realtà poi sul carro sono saliti in tanti, quindi le aziende OGM, le aziende farmaceutiche che vedono aumentare del 60% le malattie neurodegenerative, per cui vendono farmaci a vita fino a quando il povero paziente dopo 30-40 anni non muore con una malattia che non è curabile, che in realtà sarebbe curabile perché basterebbe disintossicare l'organismo dai metalli, però certamente non te lo dicono. Questo vale per la SLA, vale per l'Alzheimer, per il Parkinson, che sono malattie dovute proprio alla contaminazione da metalli nell'organismo. Però il caso delle OGM è eclatante. Innanzitutto adesso la Monsanto è stata proposta per, o addirittura forse ha già ricevuto il premio Nobel, non si capisce per quale motivo, ma non è un caso se la Monsanto un paio di anni fa ha pubblicato la realizzazione di una semente resistente all'alluminio. E guarda caso, come mai si dovrebbe trovare così tanto alluminio nel terreno se non fosse che ricade, e soprattutto un'altra semente in grado di resistere alla siccità, laddove appunto abbiamo visto periodi lunghi di siccità, e in Liguria del Ponente abbiamo un deficit idrico notevole grazie al fatto che, già che qui non deve piovere per qualche motivo che conoscono loro, qui non piove quasi mai, piove due gocce di acqua appiccicosa per 10 minuti e poi basta. Quindi questi sono i risultati, e poi ecco che interviene il ministro l'agricoltura di qualche governo fa, del governo Monti, il quale dichiara che è fondamentale dare più spazio agli organismi geneticamente modificati, perché se abbiamo una crisi idrica loro ci possono aiutare, questi ci possono aiutare. Mi pare che fosse stato. Forse sì, mi pare proprio di sì, poi non so se fosse ministro dell'agricoltura, tanto oramai qua i ministeri sono uno meglio dell'altro, sì. Caso, infatti. Ascolta, Rosario, provo a vedere e prendere una chiamata, una telefonata, vediamo se lo riesce a sentire bene. Ok. Facciamo una prova. Pronto? Pronto? Sì. Abbassa però. Aspetta che abbassa un attimo. Abbassa tutto. Sì, abbassa tutto, un attimo. Sono dalla macchina. Ciao. Ciao, lo senti Rosario? Chiaro? Sì, sento chiaro e nitido, bene. Perfetto, vai. Beh, allora. Io sono Piero da Spinea e le seguivo per questo, per quello che sei Dio dire. Sì. E mi interessa. Parla in italiano perché è genovese, Rosario. Mi interessa già da un pezzo questa storia e soprattutto anche lavorando, io lavoro in porto, vedo soprattutto queste scie chimiche che ho fotografato e addirittura da aerei che parte dall'orizzonte, fa tutto il periplo e dopo improvvisamente, non è un discorso che condensa, perché? Perché a un certo punto gli chiamò a fare la scia chimica, che esatto. Ne passa un altro, la incrosa, sì. Poi si è rotte tutte fantasiose, per cui si è chiaro che ci buttano in testa quello che dicono loro. Sì, sì, sì, bravo. Soprattutto il sito di riferimento. Per dopo lo diciamo, Piero. Lo dico anche al volo, www.tankerenemy.com. Dopo lo ripetiamo comunque. Tankerenemy. Tankerenemy, tutto attaccato, Tanker con la K. Tanker è nemico dei tankers sarebbe, no? Quindi www.tankerenemy.com. Nemi con la I lunga. Con la I lunga, con la Y. Tankerenemy.com. Sì. Ok. Lasciamo spazio a qualche altro. Grazie. Bene, grazie. Ottime osservazioni. Ecco, lui ovviamente non so. Sì, ha osservato quello che poi io ho ripreso spesso, poi i nostri filmati sono online, aerei che arrivano sulla costa e cominciano a spruzzare. Questo però non è un caso, perché come dice il manuale così di uso del famoso progetto RFMP, e su questo bisogna dire che c'è anche la scomparsa di Davide Cervia, che si occupava di questa nuova implementazione elettronica della mappatura tridimensionale del terreno, e cioè il progetto RFMP, e secondo quanto concerne i problemi di definizione 3D tridimensionale della mappatura del terreno, il problema avviene proprio sulle coste, quindi non sul mare, e laddove sia necessario quindi vengono iniziate a spruzzare questi componenti chimici proprio nei luoghi interni del territorio, dove è più necessario. Prendo un'altra telefonata, Rosario. Sì. Pronto? Sì. Sì, ciao Giorgio, ciao il tuo ospite. Ciao. Ora io chiamo Treviso e volevo fare una domanda. Chi sei? A Rosario. Come ti chiami? Come ti chiami? Io sono Massimo. Sì, ok Massimo, vai. Allora, io volevo chiedere a Rosario se per caso lui ha mai sentito parlare di scalo tecnico, nel senso che gli aerei, io leggevo in internet, quando atterrano tutti bianchi giustificano la loro presenza in aeroporto con un scalo tecnico. E un'altra cosa, se aveva mai letto in internet quella lettera di quel meccanico che aveva provato a mettere il naso negli aerei modificati. Grazie, ascolto per radio. Grazie Massimo. Prego. Allora, intanto per quanto riguarda aerei che sono stati visti e ripresi presso aeroporti anche civili, non è un caso raro. Già nel 2003 il vecchio sindacato Sulta aveva segnalato la presenza di questi velivoli senza marche identificative presso l'aeroporto di Roma, mi pare, quindi non è un caso raro. Se ne sono visti anche decollare e atterrare a Rimini, a Genova, all'aeroporto Caselle di Torino. Questo è normale perché questi aerei militari usano anche aeroporti, scali civili, mentre altri velivoli civili usano aeroporti civili, spesso anche volando vuoti, ma assolvendo, diciamo, ai compiti che sono stati assegnati. Tant'è vero che i corridoi, che normalmente dovrebbero essere abbastanza diciamo precisi e poco elastici, vengono spesso stravolti completamente a seconda delle esigenze climatiche di quel determinato giorno, per cui in dette zone, in alcune zone, alcuni aerei civili per determinate ore di un determinato giorno non sorvolano assolutamente, mentre in altri casi c'è un sovrappopolamento dovuto proprio a esigenze militari, per cui questi velivoli civili vengono spesso dirottati su altre aree e per altre quote e semplicemente sorvolando con uso di questi additivi assolvono al compito che è stato loro dettato. Poi per quanto riguarda le testimonianze ce n'è più di una, quella del famoso meccanico era stata anche tradotta e pubblicata diversi anni fa sul nostro sito, ce n'è anche una più recente registrata, vocale, di un meccanico che aveva osservato delle anomalie su alcuni aerei, ma che poi è stato subito pizzicato e richiamato all'ordine, per cui dopo quelle dichiarazioni non ha potuto più fornire altre informazioni riguardo a quanto accade anche sui velivoli di linea. Quindi attenzione, insomma, se qualcuno nota qualcosa viene subito, ovviamente, perché dopo la paura di perdere il posto di lavoro. Sì, sì, è proprio così. Stato ti mettono, ti fanno ovviamente per sì, fare, no? Esatto. Ok. Finché deve arrivare qualche altra telefonata, altre novità che tu hai trovato in questo periodo? Ma elementi ce ne sono tantissimi, non basterebbe una trasmissione di una giornata per renderne conto. Direi che appunto ultimamente le ultime acquisizioni sono quelle che comunque dimostrano, al di là di quelle che erano le voci che giravano già da diversi anni, dimostrano il coinvolgimento pieno delle compagnie civili, forse non tutte ma la gran parte, e comunque anche i sistemi di controllo tipo flight radar forniscono informazioni false, fasulle, spesso sia per quanto riguarda la quota sia per quanto riguarda la velocità, per cui questi aerei civili, che è stato confermato spesso non essere dei fake, cioè dei falsi aerei civili con marche finte e compagnia bella, ma evidentemente dei velivoli civili, fuoriescono dai loro corridoi abituali, scendono di quota, irrorano una determinata città o un determinato paese e poi riprendono il loro percorso. Sono delle deviazioni anche di 45-60 gradi fuori dal loro corridoio, dopodiché escono, risalgono di quota e fanno quello che devono fare. Questo ovviamente con i passeggeri, allora, se sono con i passeggeri a bordo, sì sì. E ovviamente quando sei in alta quota non. Ed non è poi un caso se poi in alcuni frangenti, non faccio il nome della compagnia perché che comunque c'è sempre il solito task force butler che fa le segnalazioni per farmi querelare, certo. Ormai ci sono abituato, però molte di queste compagnie addirittura è capitato spesso che hanno dovuto effettuare degli atterraggi di emergenza perché avevano terminato il carburante. Questo perché? Perché chiaramente spesso e volentieri devono uscire fuori dal corridoio regolare, per cui sforano rispetto ai chilometri che normalmente sono stati calcolati in relazione ai litri a bordo di carburante e appunto rimangono in emergenza e devono atterrare prima. Prendo una telefonata dopo, casomai, quando hai qualche novità, te lo dici. Pronto? Sì, pronto, Giorgio, ciao, sono Franco. Ciao, Franco. Ciao, se puoi ripetere il sito perché si sono sormontate le voci, ti ringrazio. Va bene, dopo lo diciamo più volte. Perché in realtà la butta in una brutta zona che non si prende Radio Gamma 5. Va bene, adesso lo ripetiamo ancora, K. Ciao. Allora, già che ci sei, Rosario, è meglio che ripeti più volte il sito perché magari un po'. Va bene. Magari dillo piano piano, ecco. Allora, noi abbiamo il blog principale che è www.tankerenemy.com. Poi abbiamo il canale video YouTube, basta cercare Tanker Enemy e si trova. Poi abbiamo un canale video proprietario che sarebbe www.tanker-enemy.tv. E poi abbiamo il canale meteo, il blog meteo, che sarebbe tankerenemy.blogspot.com. Ce ne sono di cose, insomma. Siamo abbastanza bene organizzati, diciamo, per informare fino a... adesso questa già che mi hai... Sino a quando non ci chiudono i blog, perché nelle richieste della magistratura c'è anche la chiusura dei blog. Ma cos'è, un'associazione allora, la tua... No, è un comitato, Tanker Enemy, al quale sono iscritte più di 600 persone e che in pratica danno maggiore forza a quanto in questi anni stiamo facendo, per quanto, ahimè, purtroppo i guai giudiziari me li sto beccando tutti io, ma questo è normale, perché chiaramente il sistema ha, l'unico modo per farmi stare zitto è o farmi fuori oppure mettermi in galera. Per ora hanno pensato di mettermi in galera, se ci riusciranno allora poi contestualmente chiuderanno anche i blog. Speriamo che non mi chiuda la radiogramma. No, a parte che poi noi come radio cerchiamo sempre di dar voce a chi non ha voce. Bravo. Ovviamente tu fai parte di uno di questi che ormai, adesso questa, ogni tanto magari mi dici guarda che ho delle novità o cose, come ci possiamo anche mettere in contatto ogni tanto. Certamente, volentieri. Queste cosine qua poi interessano, quindi interessa un po' tutti, insomma, come siamo messi. Ma sai, queste azioni da parte giudiziaria dimostrano che non stiamo parlando di fanfaluche, perché se stessimo blaterando di fantasie chiaramente nessuno si sarebbe occupato di noi. Certo. E ovviamente quindi vuol dire che c'è un qualcosa sotto di grosso, certo, che non vogliono ovviamente svelare e vogliono tenere come sempre all'oscuro la popolazione, perché è meglio parlare di questo, dell'altro, della regina, sì, Elisabetta, esatto, ne so io, e avanti di queste cose ovviamente nessun telegiornale, perché io dico né primo, né secondo, terzo, quinto, no, sesto, anzi, non ne parla nessuno. Anzi, nessuno sa che il giornalista investigativo Gianni Lannes, che è stato cacciato fuori da tutte le testate nazionali perché chiaramente ha fatto sempre indagini investigative da vero giornalista e non da para sedere come i giornalisti che ci sono oggi, e ha scoperto che cioè è riuscito ad avere i veri motivi per cui l'aereo Itavia, che mentre sorvolava Ustica, è stato abbattuto. Quindi è stato abbattuto da un aereo israeliano, perché l'aereo era stato usato come si può dire, come esca per evitare che gli israeliani andassero ad abbattere un aereo che invece era in viaggio verso l'Iraq per la fornitura di materiale fissile ad alta qualità per le centrali nucleari o per le bombe, no? Quindi di questo non ne ha parlato nessuno. L'articolo con tutti i dettagli, anzi più di un articolo con tutti i dettagli, è presente sul blog Sulla Testa, gestito da Gianni Lannes, e lì gli italiani che avranno voglia di sapere come mai è precipitato l'aereo Itavia nel 1990, se non erro, sapranno perché è caduto e chi lo ha abbattuto e chi sono stati i politici e i magistrati che hanno coperto per anni i veri motivi per cui l'aereo è precipitato. Ma queste cose noi non le sapremo mai, a meno che non abbiamo la forza e la volontà di andare alla ricerca di informazioni, la vera informazione, perché quello che ci dà oggi l'Italia e non solo è disinformazione poi alla fine. Sì, proprio così. Altre cosine, aspetta un attimo, vediamo se... No, questo qua. Altre cosine che vorresti magari dire, magari... Ma al momento mi viene da precisare, per evitare che vi siano così incomprensioni nell'osservazione del fenomeno, che non sono scie di condensazione neanche quelle scie evanescenti che sovente si vedono nelle giornate in cui il cielo è apparentemente azzurro, sgombro da nubi e privo di coperture. Si tratta sempre di aerei che rilasciano prodotti con una percentuale inferiore di trimetilalluminio e che quindi emettono delle scie a persistenza inferiore, ma giacché la quota è sempre prossima ai 2000 metri, in condizioni fisiche inopportune, incongrue per la formazione di qualsivoglia tipo di scie di condensazione, non si tratta di vapore acqueo, ma si tratta sempre di scie cosiddette chimiche. No, più che altro è che noi dobbiamo sempre vedere, una volta, sto parlando di qualche 3, 4, 7, 10 anni fa, sì. Sì. Vabbè, noi si vedevano l'aereo che ingrassava la cosiddetta SIA di condensazione, sì. Faceva una SIA praticamente microscopica. Microscopica, perché poi. Sì, perché l'aereo era molto distante, lo potevi distinguere. Questa SIA, sì. Che era anche carina anche da vedere, no? Certo. Che poi 30 secondi al massimo, ma spariva. Allora, intanto, vedi, la questione è che spesso e volentieri, quando noi eravamo ragazzini, se osservavamo un aereo, o perlomeno l'aereo non era visibile perché era ad alta quota, ma se vedevamo la scia e quindi potevamo intuire che davanti a quella scia c'era l'aereo, per noi era come vedere una cometa in agosto, cioè comunque era un fenomeno raro, no? Perché le scie di condensazione sono un fenomeno rarissimo, tant'è vero che se vediamo filmati ufficiali, sia civili che militari, nessun aereo rilascia nessun tipo di scia. Quindi la questione della scia di condensazione tirata su attraverso il mainstream e la propaganda che ormai abbiamo sia a livello di cartoni animati, sia a livello di cinema, documentari, telegiornali e quant'altro, serve solo come copertura per coprire le operazioni di aerosol clandestine. Perché queste scie di condensazione sono talmente rare, soprattutto ad alta quota, che non è possibile vederle tutti i giorni e tantomeno vederle in contemporanea 50, 60, 70 aerei che in un giorno rilasciano altrettante scie, no? Non è possibile. Poi tra l'altro noi possiamo osservare che questi sono aerei a bassa quota perché l'aereo si distingue nei dettagli, tante volte si può notare anche se ha delle marche sotto le ali oppure no, si può notare la compagnia se è un aereo di linea che è sceso di quota, cosa che non è per un aereo di linea che vola a 10.000-13.000 metri di quota, che non è assolutamente visibile come non lo era una volta. Poi un'altra cosa da dire importante è che nelle giornate cosiddette di bel tempo, laddove i meteo ci spiegano oggi giornata bellissima, cielo sgombro e privo di nuvole, non è normale che non vi siano nuvole, perché l'evotraspirazione provoca sempre la formazione di nubi da bel tempo, altrimenti non si chiamerebbero così, si chiamano nubi da bel tempo o cumuli, proprio perché anche sui deserti e quindi dove non c'è umidità si formano lo stesso. Quindi come mai osserviamo da noi, che siamo un paese circondato dai mari, le nuvole appare che non si formino? Perché durante la notte vengono distrutte. Una volta, io parlo del 2007-2008, erano meno diciamo scaltri, quindi queste operazioni di distruzione della nuvolosità naturale le operavano durante il giorno, adesso sono diventati più furbi ed operano di notte in modo tale che nelle giornate di alta pressione non hanno bisogno di usare scie di tipo persistente con l'impiego di tanti aerei militari, ma possono semplicemente far uso dei voli civili attraverso scie di tipo non persistente. Quindi la tecnologia, insomma, è avanzata. Si è avanzata, ma appunto questo dimostra che la fisica non può essere cambiata, per cui se sono cambiati i metodi e anche l'osservazione ci porta a notare che il tipo di copertura è completamente diverso da qualche anno fa, significa che non siamo di fronte al fenomeno della condensazione. Certo, quindi per concludere questa nostra chiacchierata, e dopo, come ti ho detto, Rosario, noi, quando hai voglia mi fai una chiamata, tanto hai il mio numero di volentieri. Ecco, tu ce l'hai ancora il mio numero di telefono? Certamente. Boh. E mi chiami, dici, facciamo una chiacchierata e ci mettiamo d'accordo. Grazie. Hai voglia e quando hai un po' di tempo, perché è sempre giusto poi sapere. Manteniamo sempre il contatto. Certo, certamente. Quando tu hai voglia. Anche quando hai voglia tu fai un SMS. Libero, che dopo io, bene o male, un'oretta te la fido. Bravo. Per problemi. Perfetto. Ascolta, per concludere, sì? Quindi abbiamo capito che queste cosiddette scie chimiche, comunque in ogni caso, stanno danneggiando il pianeta, sì? Stanno danneggiando ovviamente tutta la terra, quindi l'agricoltura. Stanno provocando morti. L'uomo. Stanno provocando morti, certo. Stanno provocando morti e malattie. Quindi va a chiudere un cerchio, come ho sempre detto io poi, che alimentazione e farmacia, sì, sono, vanno via a braccetto, e guarda caso Monsanto c'è. Ma, sì. E io ti produco una alimentazione cacca, scusami la parola, sì, capito, OGM, quindi, sì. Quindi mangiando OGM vai a, dopodiché dopo alcuni mesi o alcuni anni, che non lo so quando, tu devi ovviamente mangiare anche la pastiglietta per stare bene. Ma il problema poi purtroppo non è solo lì, perché anche al momento, escludendo che, a parte piccole rarità per fortuna per ora di coltivazioni OGM in Italia, nel nord Italia, io sicuramente posso confermare che il problema è anche attuale, prima di tutto perché le piante stanno morendo attaccate da parassiti che non si capisce da dove e come vengano, perché ormai abbiamo una moria di vari tipi di piante, tutta da parassiti sconosciuti prima, guarda caso, del 2002. L'anno in cui tra il 2003 e il 2002 c'è stato l'accordo Italia-USA per i cambiamenti climatici e quindi per le sperimentazioni in sito, ma poi soprattutto anche se noi andiamo a scegliere l'alimentazione naturale, quindi biologica, dobbiamo tener conto che tutta questa alimentazione, a partire dai terreni che sono contaminati, dalle acque piovane che sono contaminati, sono alimenti contaminati da metalli, per cui l'unica cosa che io posso consigliare è quella di eseguire un test che si definisce mineralogramma e che può essere eseguito presso diverse aziende, non certo privatamente, non certo tramite la mutua, che non supporta questo tipo di analisi, per cui io adesso non posso fare pubblicità, ma interessatevi, sul nostro sito troverete anche i riferimenti per questi tipi di test che devono essere fatti. Si noterà una presenza considerevole proprio di questi metalli killer, per cui poi bisognerà operare, sempre consigliati dai medici che si occupano di questi test di rilevamento di metalli nel nostro sangue, ci si dovrà impegnare a fare delle cure cosiddette chelanti per eliminare i metalli nell'organismo, perché questi metalli, se rimangono a lungo nel circolo sanguigno, arrivano al cervello e danneggiano i neuroni irreparabilmente, arrivano al fegato e danneggiano il fegato, arrivano ai reni e danneggiano i reni, e arrivano ai polmoni e danneggiano i polmoni fino a provocare malattie molto gravi e mortali. Siamo sistemati, quindi bisogna cercare di attuare due tipi di difese. La prima è la scelta degli alimenti giusti e cercare di decontaminare il proprio organismo da quanto respiriamo ed assumiamo quotidianamente. La seconda è attivarsi in maniera costruttiva per cercare di sradicare dalla base queste operazioni, e per poterlo fare dobbiamo agire solamente con lo sciopero fiscale. Ascolta Rosario, io direi, prima di concludere, e ti ringrazio ovviamente per la tua disponibilità, di ripetere tutti il sito, tutti i mezzi per arrivare a te, ovviamente per tutte le informazioni che possono trovare. Va bene. Allora, intanto i siti non sono tre ma sono quattro. Il primo sito è www.tankerenemy.com. Il secondo è www.tanker-enemy.tv. Poi c'è tankerenemy.blogspot.com, che sarebbe il blog meteo, e poi dulcis in fundo c'è tanker-enemy.com. Lì sono archiviate una serie di analisi chimiche che sono state effettuate, non tutte perché comunque le analisi nel mondo effettuate in questo caso sono centinaia, però c'è gente che ancora mi chiede, bisogna analizzare la terra e il cielo, l'acqua e l'aria. C'è già tutto analizzato, ci sono i risultati e sono presenti su tanker-enemy.com. Ok, Rosario, io ti ringrazio ancora una volta. Grazie a te. Ci sentiamo più avanti, quando vuoi, come ti ho detto prima, e buona vita. Grazie a te, grazie alla redazione di Radio Gamma, buonasera e grazie a tutti voi. Grazie Rosario, a risentirci. A risentirci, ciao. Ciao.